Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, vado al lavoro in bici sulla Quinta Avenue a Manhattan e ascolto il podcast della Zanzara. Siamo al top. Io inizierei oggi con il professore Sgarbi. Professore Sgarbi, che è stato condannato a 5 mesi. Mamma mia, combina una più di Bertoldo. Ma sì, perché? Però l'avvocato, che è anche un mio amico, dice che in sostanza è forse il più maleducato in Italia. E con questa, come dire, con questo trucco è riuscito a far dare a Sgarbi solamente 5 mesi, per oltraggio a pubblico ufficiale, anzi no, per resistenza, perché per oltraggio eccetera. Ragazzi, vogliamo ricordare, a un certo punto Sgarbi, credo un anno fa, un anno e mezzo fa, si presenta davanti all'Expo dove era appena stato, vuole entrare, non ha credo nulla dai passi ufficiali eccetera, i carabinieri lo fermano per un controllo, non lo vogliono far entrare, lui sbrocca. Ho denunciato i carabinieri perché il giorno dell'inaugurazione, dopo essere andato lì 40 notti e l'ha visto Parenzo, hanno pensato che non c'era la targa della mia macchina, che non ho segnato. Mi hanno fatto arrivare alla inaugurazione con 3-4 ore di ritardo. Li ho denunciati per un direttore di pubblico servizio. Questi la devono smettere di rompere i coglioni alle persone serie per fare delle cose che riguardano i controlli del buco del culo. Ma non devono controllare, vedono uno e dice: buongiorno, Sgarbi, sono suo ammiratore, documenti. A uno così cosa gli dici? No, ma io ho denunciato delle persone che erano vestite da carabinieri, che interrompevano il pubblico servizio, dopo aver detto a Sgarbi: buongiorno, come va? Con un suo ammiratore, facciamo un selfie. Hanno fatto il selfie e poi hanno preteso i documenti per farmi ritardare. Sì, ho detto sono metodi fascisti, l'ho anche messo nella mia denuncia. Cioè, questo ha dato dei fascisti, non fate un cazzo, dovete andare via, non fate una mazza dalla mattina alla sera, 5 mesi, e più aveva già patteggiato dei soldi, dei quattrini prima, vabbè. Allora, te la ricordi una che si chiama Rula Gebreal? Come no, ma la giornalista solo tu la conosci, certo, in Italia, Rula, famosissima, come sì, no, Rula una palestinese, dice, esperta di politica estera, una giornalista esperta, tutti sono una giornalista brava e capace, mi sì, pare. Sì, con Trump sì. Le stesse idee di Hitler, dice. Beh, questo forse è un po' esagerato. Dai, su, ma come cazzo si fa, dai. Rischiamo che queste si ripetono le politiche di Hitler di anni 30, perché più o meno è la stessa idea. Hitler che idea aveva? Noi siamo patrioti, gli altri no, gli altri sono minori, bisogna perseguitarli e bisogna discriminare contro di loro. Però l'idea di base è che bisogna far tornare la Germania grande ancora, e l'idea di Trump, l'America allora, grande ancora. Allora, cioè, ma nessuno nessuno ha fatto presente a questa signora, scusi però signora, l'idea di Trump, potranno essere anche bislacche, ma non prevedono la soppressione degli altri, cioè non prevedono, no, l'olocausto. Questo, questa è la differenza, cioè, fondamentale. Uno può dire anche che Trump è un coglione, che Trump è, e questo si può dire, è pericoloso, io non lo credo, anzi faccio tipo verità, però uno può dire è pericoloso, quello che vuoi, ma che dire che è come Hitler mi sembra veramente una boiata. No, ma il bello è che certe persone vengono invitate e intorno a queste persone c'è un'area di autorevolezza, dici, sentiamo quello che dice la giornalista palestinese, sentiamo quello che dice, no, ma per dire, no, sentiamo, no, tutto il collegamento da New York, dall'America, cioè, insomma, io vorrei dire che, no, quella è l'ultima, che in realtà vorrei dire che come Hitler, ma che cazzo dici, ma togli, alzati dalla sedia e vai a fare in culo, uno dovrebbe dire, senta, vada via, perché non è in grado. C'è uno che dice che Trump è come Hitler, dai, su. Comunque, Luttuak, mitico Luttuak, cosa dice? Non dare il visto, senti, questa è bella, è buona. Hey Dan. I consoli americani, quando emettono un visto, dovrebbero guardare la persona di fronte a loro, se vedono che è una barba tipo Zappa e occhi fanatici, non affrettarsi e dargli un visto. Ma i terroristi... Cioè, chi ha la barba come Frank Zappa e gli occhi fanatici, non dare visto. Com'è che fa? Com'è che fa Luttuak? No, molto semplice. Noi pensa che in Stati Uniti, se si presenta a board, ma più, cioè, lento va, più lento a va. Frontiera, sì. Si presenta questi camusso. Ma che c'entra camusso? Camusso, il CGL, grande crimine quasi quanto ISIS, pericoloso come Daesh praticamente, perché fa scioperi, blocca paese, crea casino. Ma non ha la barba, alza carte, non ha barba. E chi ha detto che non ha barba Camusso? Dove è scritto? Tu vedi Camusso lì al frontiere, al board, come chiamiamo noi board, porta passaporto, vedi subito che è comunista, rispedisci con, non con barcone, con volo subito in Italia a fare danni in questo paese, morto, finito. A un certo punto dice a Formigli: silenzio, silenzio! È il fenomeno della violenza di sunniti contro Ahmadiyya, perché in Indonesia, dove io ho lavorato, loro uccidono Ahmadiyya. Sì, ma quei 324 erano musulmani, quelli che sono morti. No, sono, allora, erano musulmani. Silenzio. Chiedo scusa, silenzio. Ma in Indonesia, dove non è andato nessuno, nessuno è invaso. Allora, a proposito di immigrati, senti il nostro amico Bissani scatenato, gli immigrati che lavorano non sono efficienti, rompono i piatti, cioè in cucina evidentemente ha delle esperienze dirette, professor Bissani, grande. Perché io dico, tutti questi immigrati che devono rimanere in Italia, cioè tu vuoi fare il cuoco, vuoi fare il facchino, vuoi devono fare lavorare, il cuoco. Non sì, possono, ma dobbiamo istruirli queste persone. Arrivano questi del Nord Africa, sono veramente pietosi quando arrivano dentro, rompono i piatti, non sono efficienti. Bissanone, allora, sembra, capito, un po' eccessivo, ma, quella, Bissanone, ma questa, scusa, analisi. Ma perché eccessivo? Sarà la realtà che descrive, no? Si può generalizzare, dai, gli voglio un bene, scusa, dell'anima, ma, Bissani, se Bissani bene... nelle sue cucine ospita dei signori che sì, rompono i piatti, carità, no, e ma non dice... bisogna mai generalizzare, comunque gli voglio bene, voglio un bene dell'anima io, Bissani, quindi non parlerò mai male. Ma che c'entra, anche se vuoi bene, se uno dice una cazzata, uno però dice, io anche... voglio un bene dell'anima, sì, ma una persona a cui vuoi bene sbaglia. A una persona a cui vuoi bene dici, guarda, stai a dire una cazzata, ha commesso un piccolo errore, secondo me, un piccolo errore. Senti che litiga con quello furfaro, quello di sì, era l'aria d'estate, sì, senti, l'ho vista oggi, questo tutto. Mi chiamarono a me, al governo, e mi dissero: Bissani, puoi fare addirittura una istruzione per questi rifugiati politici? Dunque, per dare un consenso, per poter imparare un mestiere, perché ci sono tanti mestieri, ma siccome che nessuno si vuole piegare né alla terra né a lavare i piatti in cucina, che sono un sacrificio, fermo. Non si trovano. Parla solo lei. Ma non si trovano. Sì, che ma non fare. Si trovano sta roba. Ma lei li vuole prendere tutti. Li prenda in casa sua. Allora forse c'entra, è meglio. Missale, ma cosa sì. Fa? Allora, e qui arriviamo alla proposta, beh, caro Parenzo, del signor Orban, Viktor Orban. Mamma mia, ecco, questo è veramente, veramente disdicevo, no, è pericoloso, schifoso. Il primo ministro dell'Ungheria. C'è incredibile dove stiamo andando. Che tutti i migranti illegali, cioè i clandestini, e non tutti, tutti i clandestini dell'Unione Europea, siano rastrellati, che parola, mi vengono i brividi a sentire, e portati in campi profughi sorvegliati, finanziati dall'Unione Europea, su un'isola. mi vengono una i brividi. Costa del Nord Africa. Quando io sento sta roba mi vengono i brividi. Ma che sarà mai? Rastrellamenti. Sono illegali. Campi. Tu prendi. Mi vengono prendi. I brividi a tu sentire prendi sta roba. Questi signori illegali, entrati illegalmente. Sì, li prendi, l'Europa l'ha già fatto, diciamo. Li in prende, passato. Li prende, li porta qualcuno su un'isola. Qualcuno in Europa in passato lo cioè, ha tu già stai fatto, dicendo che Orban diciamo. È simile a Hitler in questo caso. Orban usa un linguaggio da anni 30. Questo vabbè, è sicuro. Questo è scontato, dai. Questo è sicuro questo. Però è sicuro. Dire, ma c'è il qualche fatto difficoltà. Che sia stato eletto non lo giustifica. Devo dire, c'è qualche difficoltà organizzativa da questo punto di vista. Cioè, raggruppare no, in un'isola oppure in Nord Africa. No, ma non si farà mai. Il fatto è quello che cioè, mette le persone nella condizione di poter dire ormai queste cose, ma capito? Che eh no, questa è la cosa grave. Cioè, quando un capo di Stato usa questo linguaggio da anni 30, che poi non metterà in pratica, ovviamente, perché non sa prendere come farlo. Prendere i clandestini e metterli no, su un'isola. No, automaticamente, il capo di uno Stato usa questo linguaggio allora? Autorizza la gente comune ad usarlo, che è ancora peggio. Tu lo sai, cioè diventa normale usare la parola rastrellamenti, campo di concentramento, fa schifo dai, un fa sacco schifo. Di gente che ci sente, tu vuoi scommettere che un sacco di gente che ci sente è d'accordo con questa cosa? Beh, non vuol dire che sia giusto, infatti è una fogna, non un sacco, un sacco di gente che chiama. Beh, non che sente, che chiama cittadini comuni, persone che ascoltano, ma è una fogna. Ma che il cittadino fogna, comune ha ragione, non è che siccome il cittadino non comune non ho detto che ha ragione, ma ha spiegato che è un linguaggio razzista, cioè e che cos'è? È un'idea. Ormai è normale, è un'idea. Ormai è normale parlare di rastrellamenti, di campi, ma no, rastrellamenti di maledetti, significa di raccogliere ebrei, le persone, ma no, ma questa che roba qua è diventata la norma. Ma che c'entra gli ebrei? Cioè la cosa scandalosa ma che ormai è vero, nessuno dai. Si e risulti politicamente scorretto, anzi no, politicamente no, no, corretto no, no, no. Se metti in evidenza questo, cioè, sei un buonista, dici come? Hai usato la parola rastrellamenti, portare in camera a gas. Ma no, camera a gas nessuno l'ha detto. No, ma sei un buonista, ti dicono. Ma che buonista. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. C'è da dire, Parenzo, che oggi un consigliere comunale del Partito Democratico a Ferrara, del PD a Ferrara, una sì, tale Ilaria Baraldi, consigliere sì. comunale del PD a Ferrara, ha pronunciato questa frase. Sentiamo. Non smentita. A me impressiona di più la polizia in tenuta antisommossa che quattro spacciatori in bicicletta. Cioè, meglio spacciatori della polizia. Ma che paragone? Meglio spacciatori che agenti. Questo ha detto, non lo so in che occasione l'ha detto, ecco, però questo capire in che contesto l'ha detto. Uguale, così sembra una scempiata assoluta. No, ma è una scempiaggine. No, ha detto così, non si capisce il contesto in cui la a bisogna me, capire. Dite se... quello che vi pare, ha scritto sempre su Facebook, naturalmente. A me impressione spaventa molto di più un gruppo di ultra surlanti e la polizia in tenuta antisommossa, in realtà ultra surlanti e polizia antisommossa, che quattro spacciatori in bicicletta. Lo penso e l'ho detto. Jealous, I'm never ever cruel. I'm a graduate of Harvard, where I never broke the rules. Vabbè, andiamo a Treviso, vai Roberto, vai. Pronto, buonasera Cruciani. Dimmi. Buonasera, senti, io volevo dire alla signora Gebral che forse dovrebbe scendere un po' dal piedistallo. Visto che ogni volta che va in televisione non perde occasione di dare dei razzisti, degli scemi a tutti quelli che non la pensano come lei. Sì, ma un po' chi se ne frega, Non mai l'ha detto, non mi pare. Un po' chi se ne frega di questa signora, cioè, ma vabbè, no, ma pontifica. Adesso è un po' che non si vede in televisione, ma già da era. Ma veramente è ieri che si è vista in televisione. Sì, per assolutamente, ma era un momento in cui era molto più presente. Vabbè, ma una che fa un paragone tra Trump e Hitler, viene presentata pure come autorevole, non c'è nulla da aggiungere. Non c'è nulla da aggiungere. Dice delle cose generalmente sensate. Ma dove? Sensate di che? Cioè, sensate di che cosa? Generalmente fa delle analisi. Ma generalmente sensate, che cosa? Ha fatto dai un paragone eccessivo, però tu che ti scandalizzi per i paragoni eccessivi. Ma no, ma che vuol dire? Ma è non un po' come il bue che dà del cornuto alla Io non mi pare, io ha non fatto mi un paragone mica eccessivo. Mica mi scandalizzo. Ha fatto un'iperbole anche lei. Ha detto non una è cazzata, appunto, ne dico tante. Ha fatto un'iperbole come ne facciamo tante noi, anche lei. Vabbè, ha esasperato un ragionamento. Giuseppe da Roma. Giuseppe da Roma. Questo ha fatto, che ha detto? Dai, su, ma che cazzo vuol dire paragonare Trump a Hitler? Come facciamo noi, come fai tu ogni giorno? Ma hai esasperato un ragionamento. Ma no, ma lo fa con quest'aura di autorevolezza. Ma che c'entra? Ha fatto un'iperbole. Giuseppe da lei. Roma, dai, Giuseppe. Cruciani, sei in testa di cazzo. Sì, sono una testa di cazzo. È possibile, sì. Sei un coatto romano. Sì, può essere. Trapiantato a Milano e culattone. Sì, culattone non mi risulta, però va bene. Trapiantato a Milano, sì. A te piace il dito, quindi quando piace il dito... Mi piace prendere il dito. Questo chi da dove risulta? L'ho detto io qualche volta. L'ho detto tu una volta. L'ho detto io, che sei mio biografo, che sei? No, no, ti seguo. Non ho capito, perché uno che dice una cosa del genere automaticamente, per carità, ma poi non c'è niente. Sì, ma non ci sarebbe nulla di strano, capito? Cioè, non è che mi vergognerei a dirlo, capito? Invece tu, dicendo questa cosa qua, dimostri che invece non sopporti gli omosessuali. No, poi a posto del dito ci posso... Sì, ma non è un problema, Giuseppe, cioè non è un problema di quello che vorresti fare tu, cioè è che definisci questa cosa in maniera quasi, no, sprezzante, sì, ti piace sì, perché il tu, quando tu fai certe cose, ti devi pensare. Tu gli era fatto passare una popolazione. Quale popolazione calabrese? No, un paese che si chiama Nicotera. Sì, con l'accento calabrese, che paese è? Nicotera. Ha detto tutto. Ha preso tutto quanto. Ma qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? Ecco, mo te lo dico. Dimmi. Tu ti fai la stessa intervista che ha fatto in Calabria, sì, la fai a Milano. Perché come l'ha fatta passare? Ma su che cosa? Quale intervista? Quella che ha fatto. Ma di che cosa? Clitoride. Ah, allora, ma che c'entra? Quello potrebbe essere fatto da qualsiasi bordo. Io non so manco dove è stato fatto e non era in Calabria, era in Sicilia. Calabria. Non sai un cazzo. Ciao, Saverio da provincia di Bari, dai. Pronto? Dimmi, Saverio, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi. Niente, ho sentito l'intervento, cioè state parlando di Vistani, sì, dello chef. In pratica Vistani ha avuto nella provincia di Bari in gestione un bene confiscato alla criminalità organizzata. Ora, spiegami che cosa c'entra questa roba, a noi che cosa cazzo ce ne frega di che cosa ha fatto Vistani in provincia di Bari, spiegami. Beh, siccome Davide ha detto che è umanamente simpatico, anche a me è umanamente simpatico. Non lo so, non conosciamo quello che ha fatto in provincia di Bari. Che cosa ha fatto in provincia di Bari? Volevo che indagasse su questo. Ma non indaghiamo, quella è la polizia che indaga. Cosa dobbiamo indagare? Su che cosa? Diffamatore. Penso che giornalisticamente ci... Ma che cosa? Qual è il punto? Spiegami. Il punto è che ha avuto in gestione un bene confiscato alla criminalità organizzata, l'ha avuto in gestione per 2 anni e non l'ha valutato. Vabbè, chi se ne fotte? Diffamatore. No, ma diffamatore non lo so, perché chi gli dà del diffamatore? No. Perché è uno che mette merda nel ventilatore. Me ne fotto di quello che ha fatto lì. Se ci saranno delle cose importanti su cui la polizia indagheranno, c'è nessuna indagine. Alessandro da Latina, dai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Volevo fare una domanda. Io vorrei sapere, no, come fa un immigrato, sì, a pagarsi lo sbarco dalla Libia in Italia e pagare $4,000 per lo sbarco, giusto? Per venire, sì, in Italia. Allora io voglio capire una cosa, un eritreo, un pakistano, lasciamo per i siriani, quelli sono in guerra e se vengono qua sono ben accolti. Ma un eritreo, un nigeriano che viene qui e paga $4,000, no, giusto? È, sì, come se io decidessi di andare in Spagna e pagare €1,500,000 per il viaggio. Ma che questi ci stanno prendendo? Ah, perché per $4,000 sono €1,500,000? Sì, perché pagano $4,000 per fare lo sbarco. Ma $4,000 sarebbero €1,500,000? Però è una domanda interessante. Cioè, come alla fine, come riescono a raccattare tutti questi denari? Fermo lì. La pausa delle 18:55 è paragonabile a un coito interrotto. Cruciani, noi vogliamo godere fino in fondo. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. La Zanzara. I'm on road for 40 days. Ma Mauretto da Mantova, che sta sempre a corto dei soldi, mo spiegate come cazzo fa a cambiarsi il cellulare tutti i mesi? Ma... Cruciani, sono un vegano, mi è venuto un virus intestinale, voglio tenerlo, voglio accudirlo, voglio accarezzarlo e quando farò gli stronzi li metterò in una gabbietta e gli darò un nome. Allora ragazzi, andiamo, Daniele da Bologna, vai Daniele. Buonasera, dimmi. Sono Daniele, volevo ricordarvi un episodio che ha interessato tempo addietro la giornalista palestinese. In una trasmissione di Santoro, lei fungeva da valletta. E ad un certo punto si sentì una voce fuori campo che la definiva una gnocca senza cervello. Sì, lo ricordo perfettamente. Ecco, sì. Forse era Tremonti. Se lo ricorda, forse, uno degli incriminati, uno dei sospettati era anche il professor Sapelli. Sapelli, che bravo. Che ha sempre negato la cosa. Vabbè, adesso al di là di questo, dunque... No, dunque niente, volevo ricordare tu dici che la definizione si presta bene a definire la signorina. Allora le dirò, allora era una donna molto bella, adesso non no, ma anche visto. Adesso è molto bella. Ecco, d'altra parte viene invitata in televisione, credo che venga invitata in televisione soprattutto per quello. Ecco, ma no, è perché sa delle cose di politica. Ma non sa un cazzo, una che definisce Trump uguale a Hitler, ma non sa un cazzo. Ma ha usato un'iperbole, dai, come la usi tu sempre, non si capisce perché Lula non possa usarle queste... C'entra. Ha detto una cazzata, appunto. Ma scusa, ma se qualcuno avesse definito mi ricorda come, ma non è così. Ma perché sei così attento alle cose quando dall'altra parte invece spacchi? No, sono attento perché se le iperbole valgono per tutti, però... valgono anche per lei. Vabbè, o no? Vabbè. Ma non dire stronzate, ma non è questo il punto. Perché dai, soltanto tu hai la franchigia. Ma cosa per c'entra? Non ma dire. Cosa lei c'entra? Ha usato chiaramente ma un'espressione. Bisogna forte, vedere come no? Lo dici. Se lo dici seriamente, credendo c'è una cosa oppure ma no? Ma tu lo dici seriamente. Ma no, ma io dico qualche volta per fare. Ma scusa, ma aspetta. Anche lei è uguale, ma magari cazzate, l'ha detto dai. Perché ha voluto colorare il suo intervento con un po' di passione, sono due dicendo cose diverse. Mi ricorda nei toni, a parte che nei toni è vero che lui ricorda, ma Hitler, certamente non ha nulla Hitler, a che vedere, Hitler, ma no, ma un Hitler, linguaggio, ma sicuramente Hitler, un linguaggio Hitler, da anni 30, Hitler, ma questo è sicuro, Hitler, ma non dire ma puttanate, un dai. Linguaggio da anni 30 sicuro, la patria, sì, via gli immigrati, Fabrizio da Treviso, ma quale no, patria, ma così. Che stai dicendo, Fabrizio da Treviso, ha usato una iperbole. Fabrizio vale da Treviso. Vale per noi, vale anche per lei. Sì, vabbè. Fabrizio da Treviso. Dottor Cruciani? Dimmi. Sì, buonasera. Sentivo prima un intervento di un ascoltatore dove rapportava la tariffa pagata dagli extracomunitari di 4.000 euro alla... No, diceva una cosa. Dollari. Beh, dollari, cambia poco. Anche se sono andato subito a vedere a caso il pro capite di uno stato come la Somalia. Poi conosco l'Africa, lì mediamente lo stipendio è 50 euro al mese. Qualcuno mi ha scritto che spesso loro danno indietro i soldi a chi li ha portati, esatto, poi lavorando. 50 euro al mese, ho fatto un calcolo veloce, con uno stipendio nostro sono grosso modo 120. Vabbè, allora cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire con questo? Che l'organizzazione, che credo che questi devono ripagare. Sì, sì, no, ma è sicuro. Ma questi denari non vengono ripagati, non il denaro del trasporto, ma il denaro poi, la garanzia ce l'hanno già che sono le loro persone. Poi questi verranno sfruttati a vita perché i 4.000 euro non li hanno sicuramente pagati perché non li potevano pagare e dovranno rimborsarli con mesi o con anni sfruttando tutti questi personaggi su tutti quei lavori al limite o al di fuori della legalità e saranno inchiodati a vita. Quindi le organizzazioni non stanno semplicemente... Va bene, ho capito. Ivan da Udine, vai. Buonasera, io volevo dire a Parenzo che è di una ignoranza disarmante. Ma su che cosa? È impossibile ecco il continuare Nobel. A dire a parole vanvera senza sapere le cose come stanno. Ecco il Nobel. Allora, l'Australia fa attualmente le stesse cose che Orban dice un giorno. Aspetta che si sente poco, Ivan, si sente poco, vai. Niente, non sente un cazzo. Massimo da Bologna dice che l'Australia fa le stesse cose che vorrebbe fare Orban, che è vero. Massimo da Bologna, vai. Infatti io credo anche l'Australia, ma... Vai Massimo, dimmi. Pronto? Dimmi. Allora, ho telefonato per fare una precisazione. Hai detto prima che quella signora di Ferrara ha detto che gli spacciatori sono meglio dei poliziotti. No, non ha detto così. Poi ho detto la frase. Quella è i titoli, come viene impostata la cosa oggi. Allora, l'ho letto anch'io questa cosa qui. Mi sembra di aver capito, però, leggendo, che sì. Siccome che la SPAL deve essere tornata in Serie B, in Lega Pro, adesso... No, hanno fatto un casino davanti allo stadio durante una partita. Lei ha detto, mi fanno più impressione. La polizia è stata antisommossa. E allora, siccome che Ferrara è una città che notoriamente è una città tranquilla, si gira in bicicletta, è tutto molto tranquillo, forse lei si è sentita... come si dice, in ansia, vedendo tutta questa cosa che comunque è di routine. Sì, però il fatto che venga interpretata da tutti come meglio gli spacciatori degli agenti, cioè fa più paura, ho capito, ma viene interpretata da tutti in questo modo, cioè non è che tutti siamo rincoglioniti. La frase esatta, io l'ho detta, qual è la frase esatta di questa consigliera comunale del PD a Ferrara, ha detto, mi fa più impressione vedere gli ultras e la polizia in tenuta antisommossa che quattro spacciatori. Ora, può darsi pure che possano essere più pericolosi gli scontri tra gli ultras che quattro spacciatori, ma è un paragone infelice, una cazzata anche questa, cioè, che paragone è quello tra gli spacciatori e la polizia in tenuta antisommossa? Non è che fa paura la polizia antisommossa, fanno paura i violenti, non la polizia antisommossa. Se uno non ha niente da temere, a parte alcuni casi che sono accaduti, la polizia antisommossa non provoca danni, cioè se uno non si trova di fronte là, se si trova di fronte c'è qualcosa che non va. Va bene, Enrico Rimini, vai. Salute e buonasera a tutti e due. Io lavoro con i minori non accompagnati, volevo far presente una situazione che intanto è vero che molti sono arrivati per esempio dal Bangladesh e avevano il biglietto in tasca dell'aereo. Faccio presente che queste persone, una volta arrivate in Italia, buttano via i documenti. Sì. E per essere ospitati nelle strutture per minori devono essere minorenni. Ovviamente noi... Sì, al di là di queste spiegazioni, che cosa vuoi dire? Qual è il concetto che vuoi esprimere? Quello al di là... che voglio dire io, ecco, è appunto che loro si fanno mandare dei documenti che l'ASP, che sono i servizi alla persona, dice per dire che questi sono minori, fa il test del testicolo per vedere coglioni di che grandezza sono. No, non ho capito che cosa fa, non ho capito. L'azienda servizi alla persona, praticamente per definire che questi sono minori, chiede il test del testicolo. Non sapevo che facessero il test del praticamente testicolo. Praticamente dalla misura di questo definiscono se è minorenne o non è minorenne. Ma chi lo dice? Chi lo fa questo qua? Lo fanno fa il medico. Ma lì in Italia, i centri d'accoglienza? In Italia. Quindi fanno la misurazione, perché prima c'era un problema di etnia. Ok, detto questo, perché ci stai telefonando? Spiegami. Dicendo questo, che noi prendiamo della gente che effettivamente ha 28-29 anni, però ce la dobbiamo tenere come minorenne, perché la polizia dice i documenti sono validi. Sì, ma non fanno il test, non fanno il test dei coglioni, scusa, mi spiego. Sì, ma dopo questo qui la polizia dice i documenti sono validi perché se li sono fatti spedire da Bangladesh. E allora? Pagando. Dopo praticamente vanno dal giudice di pace e te li devi riprendere. No, ma non ho capito, questi sono minorenni, non si è capito un cazzo. Cosa vuoi dire? Non ho capito. Sono minorenni, effettivamente sono maggiorenni. E allora? Il test dice che sono maggiorenni. Il test dei testicoli dice che sono maggiorenni. Invece loro si fanno passare come minori? La polizia dice, ma per me i documenti sono validi. E nei documenti che c'è scritto? Nei documenti che c'è scritto? Effettivamente, che loro sono minorenni. Ho capito, ma uno di 28 anni come fa a dimostrare che è minorenne, scusa? Come fa a dimostrare? Dal test del testicolo. Però i documenti, la polizia dice, sono validi. Perché me li hanno mandati dal Bangladesh. Vabbè, sta spiegando uno dei trucchi che utilizzano questi qua, cioè documenti da minori, ma in realtà i testicoli dimostrano che sono maggiorenni. Esatto, vengono messi fuori dalla comunità. Non sapevo che facessero il test del testicolo. Prima veniva fatto il test del polso, soltanto che... Ma quando lo fanno il test dei coglioni, scusami? Al momento che c'è un dubbio. Al momento che c'è un dubbio che misurano le palle, praticamente. Esatto, però... Ma tu l'hai fatto qualche volta? No, non lo faccio io, lo fa il medico. Certo che li abbiamo mandati, ma poi il tutto viene rimandato a un giudice di pace. E vabbè, adesso poi quello vabbè. Ok, grazie. Mauro da Como, dai, Mauro. Sì, ecco, io volevo dire, mi fa specie che tu, scusa se ti do del tuo... Sì, ma parla bene, parla. Una giornalista rulla perché è una donna, invece tutte le cazzate che spara quell'assenteista, quel truffatore di Sgarbi, allora quello va bene. Aspetta, Mauro, però cerca di non parlare col viva voce. Come stai parlando? No, non sto parlando col viva voce. E come sei? Con l'auricolare? Come sei? Sì, ecco vai a fare in culo. Allora, togli l'auricolare e mettiti normale, dai. Ecco, esatto. Adesso volevo dire che mi sembra un po' maschilista il fatto di accusare... Ma non c'entra niente maschilismo o non maschilismo. Sto dicendo semplicemente che... Per una frase che ha detto la giornalista Rula... Invece quando spara, ma che c'entra il maschilismo? Cosa c'entra il maschilismo? Cioè... perché invece quando sparacazzate, Sgarbi, che è un assenteista e truffatore, allora tutto va bene. A parte che Sgarbi è Sgarbi, non è che poi lo puoi paragonare a Lula Gebreale. Sgarbi è una specie sì, di monumento. Infatti, quello è un assenteista. È un monumento, è praticamente un monumento nazionale. Cioè, sì, della stupidità. Invece la giornalista è una giornalista. Sì, è un altro parere. Cioè, tu stai paragonando Sgarbi alla giornalista, quella di Hitler. Sì, la giornalista Rula. Cioè, preferisci sentire quella piuttosto che Sgarbi? Molto meglio lei, ma non molto meglio lei, una bella donna, ma anche perché... Ah, tu preferisci intelligente e non ha truffato lo Stato italiano. Preferisci la signora palestinese, la signora Rula Gebreal, al professor Vittorio Sgarbi. Oh, ma ognuno fa nella vita, vabbè, per carità. Cioè, assolutamente sì. Se preferisci sentire. Non ha danneggiato lo Stato italiano. Vabbè, ma lasciamo Rula perdere. Non ha danneggiato lo Stato italiano. Se preferisci la signora palestinese, giornalista, signora Rula Gebreal, sentire, sto dicendo fisicamente, sì. Immagino che la preferisci. Esatto. O forse no, non lo so. Al professor Vittorio Sgarbi, ognuno ha i suoi gusti, ognuno sa le sue perversioni, ognuno ha le sue, per carità. Cioè, se ti diverte così, a me francamente lo trovo una follia, cioè, però beato te. La zanzara e la merda della Radio 24. Siamo Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La zanzara. Allora ragazzi, sta girando questo video, Parenzo, del pestaggio nella metro di Roma del 18 settembre. Sì, l'ho visto, il messaggero. In cui questi tre signori, questi tre ragazzi, questi tre delinquenti colpiscono con una grandissima ferocia un ragazzo e la madre, no? Pugni, calci in faccia, eccetera. Poi tutti quanti si stupiscono tutto perché... per una sigaretta, peraltro, una cosa incredibile. No, tutto perché questi qua fumavano, questi l'hanno rimproverati. Esatto, con la sigaretta, poi. Questi qua si sono incazzati, a parte che adesso questi giovani casertani dicono che hanno agito sotto l'effetto di droghe pesanti. Sì. Però c'è una polemica perché nessuno è intervenuto. Ma ragazzi, ma non è facile in quei casi, non è semplice intervenire lì dentro il vagone per fermare delle furie imbottite di cocaina o di altre cose. Non è semplice, non è che la gente interviene così per separare. No, però magari... se ci sono più persone in genere, se ci sono più persone, almeno ti viene da frenare, che so, da dare l'allarme, capito, da telefono, andare in un altro vagone, ma uno si dovrebbe, telefonino, fare qualcosa. Qualcuno, la società non è una roba, come fatto. Si fa a assistere inermi a delle cose, magari come... qualcuno ha fatto qualcosa. No, ma non lo so, la polemica leggiamo, è sul fatto che la madre questa... e il ragazzo lì hanno detto che nessuno è intervenuto. Ma le persone come fanno a capire la dinamica? Che ne sanno se quei due si stanno scannando chi ha torto e chi ha ragione? Comunque due che si ammazzano, non è che ma comunque... chi cazzo interviene quando due si picchiano dentro una metropolitana? Dipende come, peraltro. Ma nessuno interviene, ma è normale che nessuno intervenga. Non è che uno si vuole pigliare una scarica di mazzaroccate per nulla. Dai, su, non si interviene mai in perché questo caso. Perché la gente ormai è diventata individualista, si fa i fatti adesso, proprio. Ma non è solo per quello. Perché io ad esempio sarei andato forse in un altro vagone. Scusi, ma signorino, che scusi, avrei chiamato la polizia, ha detto avrei fermato con la l'ha cosa fatto sicuramente, ma che c'entra? Ma non è in discussione questo, in discussione qualcuno dice bisognava intervenire dentro la metropolitana. Sentiamo la madre un attimo. Io poi ho visto che c'è stato questo che stava a fumare, mio figlio gli ha detto guarda non si può fumare dentro, poi gli hanno risposto con una parolaccia. A un certo punto questo qui è venuto tutto proprio da bullo e quello che ha perso gli è partito con una pizza, ma una pizza io poi lì per lì l'ho preso, mi sono buttato addosso, l'ho preso e l'ho sbattuto due o tre volte al paletto quello che regge, diciamo, sta reggono. Invece poi ha reagito, mi ha dato uno schiaffo e mi ha buttato per terra. Mio figlio, io mi sono girata, stava, e lui in quel momento è nato verso mio figlio, stava sdraiato per terra e quello non faceva altro che dargli carci. Io mi sono buttata addosso per reggere. Nessuno è intervenuto. Io ho pensato solo a mio figlio, che dovevo aiutare mio figlio. Io l'unica cosa che mi dovevo buttare addosso a mio figlio per riparargli il viso. Io tutti i giorni prendo la metro e io sta sicurezza non la vedo. No, io adesso se ce l'avrei davanti mi mognerebbe a mozzichi. Solo a mozzichi prenderebbe, perché quello che... Cioè io posso capire pure uno che sta esaltato un po'... Ma a quel modo io non ho mai visto, mai visto una cosa del genere, perché quell'altro che è uscito da di dietro, che mi più stava con la testa tra le due porte, e quello menava davanti a quell'altro di dietro. Vabbè, facile dire, bisognava intervenire, bisognava... aiutare quei due, che ne sa la gente di quello che sta succedendo, chi ha torto, chi ha ragione, chi ha iniziato. Beh, cosa fai a parte telefonare, come dici tu? Se sicuramente vedi qualcuno gente fa che se usa gente una che violenza si picchia, inaudita, ma cosa fai? Superiore ma a quella non puoi che intervenire. È una spinta, una cosa sì, vedendo tu, poi vedendo queste immagini c'è un sacco di gente a bordo di questa roba, tutti si scansano. E allora? Come allora? Ma tutti se ne vanno, certo, quelli si massacrano. Ma è l'indifferenza di una società. Ma quale indifferenza? Assoluta. Ma non dire parole a vuoto. L'indifferenza della società. Beh, certo. Ma quale indifferenza certo della società? Ma non scusami, dire minchiate. Se dai, hai visto su le immagini, vedrai che a un certo si punto si scansano, le 20, perché quelli si picchiano. Le persone che c'erano se ne vanno. Devi dire. Se vedi che c'è una violenza inaudita, ma cosa avresti fatto? Cosa ma no, provi fatto a chiamare altre persone e dici, dice aiutatemi a dividerli. Ma non sai nemmeno tu. Ma non sai nemmeno tu. No, da quel che vedo, da queste immagini. Ma non avresti fatto niente, ti saresti allontanato anche tu, perché è normale allontanarsi. Mi sarei allontanato come è normale allontanarsi. Dopo avrei detto a qualcuno avviciniamoci in tanti dopo, lì sì, per fermarli dopo okay, dopo che si sono massacrati. Beh, non so, la scena è durata parecchio, sto rivedendo le immagini, la scena è durata parecchio. Va bene, mi Davide pare. Milano, vai Davide. C'è un'indifferenza di base. Ma guarda, la società fortissima è indifferente. La società beh, è indifferente. Sì, è molto indifferente. La società è indifferente, sì. La beh, è indifferente. Sì, c'è un'indifferenza. Io penso la che gente questa se frase ne la sento da 25 anni. Ma è vero, perché in generale la gente se ne fotte. Davide dice, muori, ma chi invece se ne frega? Ti mirano, ma chi se ne frega? Davide da Milano. Ma no, un po' mi colpisce se vedo uno a fianco. A me una volta è capitato, ero a Milano, in metropolitana con Davide Romano, mi è capitato di un signore che stava mezzo ubriaco, per carità, nulla di pericoloso, che stava rompendo le palle a una ragazza, ci siamo avvicinati. Ma sono cose in diverse. Due gli abbiamo detto, oh, guarda, era un ubriaco, quindi non è arrivato era una l'eroe, persona è così arrivato. No, Davide da Milano, vai Davide. Ma è semplicemente la differenza da chi se ne fotte di tutto e, sì, e avere un minimo di quello che succede attorno a te, di sì, comprensione certo, di comprensione. Davide da Milano, bene, allora, se no sì, dai, che muoiano tutti. No, non è che se muoiono, dico, è sì, naturale allontanarsi. Bene Davide allontanarsi, da andare via e fregarsi. No, ho detto che è naturale. È la filosofia di Razzi, infatti. Davide da Milano è esattamente la filosofia di Razzi. Ho detto che è naturale. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tua. È questo che si Davide dice da Milano, è la contemporaneità questa roba qua. Davide dalla contemporaneità. La contemporaneità Davide te da lo Milano dico da amico, purtroppo. Vai Davide, okay, dimmi. Cruciani, io non riesco a capire una cosa. La Gebreal fa questi commenti che che tu consideri scandalosi. Non considero una scandaloso, vergogna, considero una cazzata, punto e basta, una cazzata, vergogna. Una cazzata. Che me ne frega, dopodiché, una vergogna, scusa. Dopodiché il presidente dell'Ungheria dice una stronzata tre volte peggio, perché parla di rastrellamento. Ma quello è una dice cosa un'altra seria cosa. Quello dice un'altra cosa. Dice che secondo lui bisognerebbe risolvere i problemi dei clandestini prendendoli e mandandoli su un'isola oppure in Nord Africa. Questa, dici, quindi quella della Gebreal non è un'opinione. Mi sembra molto più ragionevole. Mi sembra più ragionevole la cosa di Orban. Ah, beh, dal tuo punto di vista. Dal punto di vista rastrellamento. Io qui sono con Parenzo. Sei con Parenzo, per carità. Rastrellamento. Linguaggio da anni 30. Rastrellamento. Non perdere il linguaggio. Rastrellamento è significativo. È importante il linguaggio. Ma se uno è clandestino, va preso e mandato via. Scusami, la Gebreal è tra l'altro una giornalista. Se devo stare qui ogni volta a dire quello che dicono del Pietro e Sallusti, quindi esprime delle opinioni. Esatto. Quindi, se secondo te ha lo stesso valore una cosa detta da una detto giornalista, valore, o dal. No, io ti sto dicendo, dato che tu. Davide, uno dice che senti, è una amico mio, io trovo più ragionevole un'idea anche bislacca, inapplicabile come quella di Orban, piuttosto che paragonare Trump a Hitler. Cioè, ma quello è un paradosso, un'iperbole che ha fatto. Le stesse dichiarazioni, se domani Renzi dovesse fare le stesse dichiarazioni, tu non diresti è una grandissima stronzata, diresti è un'opinione è più ragionevole di quello che ha detto la Gebreal. Antonio dalla provincia di Bari, vai Antonio. Sì, buonasera. Dimmi, volevo dimmi soltanto avere un'informazione. Sì. Ma la traduzione di rastrellamento dall'ungherese chi la fa? Sì. Perché la mia domanda. In realtà è la parola rastrellamento non so se sia stata, se sia ecco, stata tradotta così. Mettere però in bocca una parola del genere, che è gravissimo. Io conosco molto bene le politiche di Orban, in quanto mia moglie è ungherese e andranno a votare per scegliere se accogliere o meno i clandestini non i rifugiati, i clandestini in Ungheria. Quindi prima di parlare e di utilizzare delle parole come rastrellamento e far sì che poi i catto comunisti si esaltino facendo appunto vedere che chissà che cosa sta facendo Orban. Guarda che non sono Orban. Solo i cosiddetti catto comunisti che non so neanche se esistono. Lanza ha scritto, aspetta un attimo, Antonio, scusami, il primo ministro ungherese Orban chiede che tutti i migranti illegali nell'Unione Europea siano rastrellati e portati in campi tradotto? Profughi. Ma amico mio, non lo so chi l'ha tradotto, comunque la parola rastrellamento... La traduttrice è una comunista, sì, ma il problema... che vuole utilizzare il termine rastrellamento... Il problema non è la parola utilizzata però, Antonio, scusa, abbi pazienza. Non è il rastrellamento, okay, che sia rastrellamento o che sia prendiamoli e portiamoli in Africa non cambia molto. Se uno si fa condizionare la parola rastrellamento mi sembra ridicolo. C'è qualcuno come il nostro presidente del ministro degli esteri che ha detto di metterli sulle navi, cioè, non è tanto differente, scusatemi, di fare riconoscimenti sulle navi e di fare, secondo me, purtroppo inapplicabile questa cosa qua, perché chi la controlla quest'isola, cioè un'evidente stupidaggine. Bene, le politiche di Orban, so benissimo che in Ungheria si voterà adesso a ottobre proprio per scegliere come muoversi e il popolo è il punto Orban. Fondamentale è questo, che Orban è uno che vuole usare, poi non so se ci riesce in pratica, il pugno molto duro contro l'immigrazione clandestina, e secondo me è cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Carmela da Verona, dai. Pronto? Sì, dimmi Carmela. Buonasera, ciao. Sì. Volevo salutarvi, soprattutto Parenzo. Ma non ci devi salutare, devi andare... Eccoci, cara. Buonasera, cara. Ti piace finalmente. Anche fisicamente, sessualmente? Buonasera. Beh, speriamo. Vabbè, diciamo che è un bell'uomo, ecco. Adesso mi sembra che stiamo esagerando. Come è un dettaglio. È più carino di te, dai. Grazie, cara. Più carino di me. Ma sì, no, sì. Per carità, poi i gusti sono gusti, uno può avere anche il gusto di... Ma non penso che abbia chiamato per questo la signora Gentile. No, ma è interessante saperlo invece, molto interessante saperlo. Cioè, Carmela, che cosa ti piace di Parenzo? Cosa ti piace fisicamente di Parenzo? Perché non riesco a capire. Mi piace il cervello, perché vabbè, il cervello, quello d'accordo con lui. Questo, quindi d'accordo. Già quello fatto. Ti piace il cervello di Parenzo? Vabbè. In più, comunque, come aspetto, secondo me è gradevole. Grazie Parenzo, molto, cioè, signora. Uscirei più con lui che con Tu usciresti più, dovessi scegliere accettato, come donna. Ho accettato l'invito. Scegli allora. Parenzo invece di Cruciani. Ora andiamo avanti. Assolutamente. Però. Vabbè, a parte no, quello, ma ognuno, per carità, le perversioni sono tante nella vita. Non mi pare una perversione, mi pare una persona lucida, tranquilla e ragionevole. Però mi pare quest'ultima mi pare una perversione questa qua, cioè se una donna normale sceglie di fronte tra me e te, normalmente sceglie di uscire con me, su questo, normalmente su questo, poi le perversioni che cosa fanno? Io avrei sono stati molto lontana di solito dal normalmente, no, quindi. Infatti ci sono poi alcune perversioni poi, che sono normale, cruciale, no, ma sono delle perversioni, poi ci sono delle perversioni e vabbè, allora sulle perversioni uno capisco che possa esserci, come dire, anche e invece secondo me una per venire anche un po' di masochismo, no? Perversa, quello è vero, però no, ma ci vuole perversione per scegliere, questo capito? È il punto, ci vuole perversione per scegliere, poi uno dice vabbè, poi okay. Capito, poi perché non si sa. No, ma non capisco quale possa essere, diciamo, l'interesse dal punto di vista estetico, però vabbè, oh, per carità, ho conosciuto persone anche piacenti che si sono innamorate di Parenzo, per cui sicuramente qualche cosa c'è. Ok, il mio gusto è sicuramente più da quella parte, comunque quella il mio parte. Intervento quale parte era un altro, la parte di Parenzo. Ah, bene. Grazie il mio intervento molto. Invece era mirato al fatto della Gebral, perché io ho visto tutto certo. Il suo intervento che anch'io. È durato tanto a Piazza Pulita, tutto in questa fine. È perversione pura, cioè, questa è perversione, fine, anche questa è perversione. Ok, sì. Alla fine, cioè voi avete estrapolato un pezzo che era solo la fine. Vabbè, ma amica mia, ma ridaglio con questa storia qua. C'è un no, paragone aspetta, o no con Hitler? Sì secondo. O no? È una puttanata, lei sì, fatto, basta. Lei ha fatto un paragone alla fine per dire che non è che Hitler si è svegliato un giorno e ha certo. Deciso di fare quello che ha fatto. Vabbè, certo. Ragazzi, ma se volete, se volete, se pensate... L'ho costruito, ha ragione. Sì, se pensate che paragonare Trump a Hitler vada bene, ma chi ma se ne frega? Ma se siete contenti voi, va bene. Benissimo. La Gebral non ha è una puttanata. Come ne dice Trump, questa è tre volte una puttanata. Ma siamo delle grandissime cagate da tutte le ma cosa ragazze c'è? Allora... strane che chiamano qua, voglio dire. Ma cosa vuol tradizione? Dire? Cosa vuol dire? Perché no, non per può dire una puttanata pure lei? Ci mancherebbe solo perché fa l'intellettuale palestinese non può dire ma una puttanata. Ma ha usato una iperbole. Va bene ragazzi, se va bene questa cosa qua, va bene. Ma sai perché comunque se fa un tipo di paragone di questo tipo, affermando semplicemente alla fine di un discorso che tutto può partire anche da lì, tutto può partire da lì, benissimo. Esatto. Dopo Trump ci può essere Hitler, benissimo. Ma se siete, convinti di questa roba qua, se siete convinti che ci sia un pericolo di dittatura o di non so che cosa, ha analizzato il linguaggio di Trump. Senti, a me non me ne frega un cazzo. E ha detto che è ovvio che in America non ci sono, non è l'America, non è la Germania degli anni 30. Ma non mi interessa evidente. Di fare l'esegesi. Sarebbe, ma non è l'esegesi, era quello che lei ha detto. Ma perché sei così attenta nel a queste linguaggio? Cose? Perché siccome tu ti scandalizzi tutte le stronzate e le iperbole che usi tu, poi critichi quelle degli altri. Vale. Accettiamo che anche Rula Gebreal, ha detto una puttana, che ha un suo curriculum ineccepibile, ha usato ineccepibile, lo dici tu, lo dici. Ineccepibile delle sue, lo dici delle tu, sue conoscenze del Medio Oriente. Ma lo dici tu, ma lo dici tu, lo dici tu. Della politica le ho sentito estera, dire un sacco di puttanate. Ma non si capisce perché a lei le devi rinfacciare. Ma no, ma questo paragone quando tu vivi di iperbole. Perché questa trasmissione è fatta perché, così. Perché le puoi far solo tu le iperbole. No, perché questa trasmissione è fatta così. Se non, hai capito cioè, ancora. Cioè, criticare, dare il manganello in testa. Ma che manganello? Che ho detto che ha detto una puttanata. Ha usato una iperbole. Ma scusami, ma ha usato l'iperbole? Che cos'è? Chiudiamo è una figura retorica che serve chiudiamo a che questa cosa? Discussione inutile. Basta vederlo su Google. Però prima che vai a compulsare su Google, di cui non ce ne frega nulla, niente, non ce ne frega niente. Così voglio chiamare una persona. Stupido non me ne frega capire. Nulla. Iperbole, non me ne frega cos'è? Nulla. Chiamiamo una persona. Chiamiamo una persona. Andate a vedere. Mauro, chiamiamo, andate ecco, a vedere. Vai a vedere. Come chiamiamo si una persona. Il Savino, il Somaro, tutti sti somari. Vai. Andate su Google. Invita, e vedete invita gli ascoltatori a vedere queste cose. Andate a vedere, così capirete cosa io intendo. Io chiamerei un signore della Lega che forse è d'accordo con Orban. Non so se sia ancora iscritto alla Lega, Erminio Boso. Forse sì, forse no. Magari glielo chiediamo. Ragazzi, fatemi il numero. Tanto ve l'ho dato prima. Fatemi il numero. Pronti? Erminio, come stai? Bene. Quanto tempo? Sono Cruciani, come va? Bene. Senti, amico mio, volevo chiederti un piccolo parere, piccolissimo parere sulla vicenda di Orban. Di quello schifoso razzista. Conosci Orban? Sì, beh, ho capito io chi è. Il primo ministro ungherese, Sì, ma guarda che lui c'ha ragione, eh. Cioè che vuole portarli su un'isola, no? Gli illegali. Certo. Allora, o li porti tutti quanti in Libia, in Africa del Nord. Cioè tu dici la tua una ricetta che si può fare, cioè quella tutti gli illegali in Europa portarli, rastrellarli, lui dice. Allora, vedi, io avevo detto, dico, visto che tutti conoscono Gheddafi. Sì. Facciamo il blocco in Libia. Blocco in Libia, sì. Facciamo gli ospedali. Sì, va facciamo bene. Il centro riconoscimento. Facciamo tutto quanto. Veramente, caro Boso, tu sei più conosciuto per quella proposta famosa dei ghiacciai, non tanto per questa. Questa è un'altra cosa dei cioè, ghiacciai. Cioè, in che senso? Qual è la oscenità? Quella dei ghiacciai era li mandavamo su tutti quanti. Sul bianco del ghiacciaio lo potevamo controllare e intanto preparavano il ghiaccio macinato per fare le granatine. Non era proprio una cosa, come dire, quelli magari crepavano su al freddo nel ghiacciaio, no? Ma le dai le scarpe leggere, non le dai mica le scarpe pesanti. Beh, appunto, le scarpe leggere crepano sui ghiacciai. Ma chi te l'ha detto che crepano? Per fortuna sto razzista, qui non conta più un cazzo, meno male perché... Tu sei ancora iscritto alla Lega, Erminio? Sì, ma non conta più niente, per fortuna. Sempre, ma sei salviniano? Ma non conta niente, non conta più sei niente. Sei salviniano o antisalviniano? Ma io sono della Lega, sì, il segretario della Lega. Lei Salvini, è un razzista, ma intanto... Io sono della Lega col segretario Salvini. Un razzista, quando intanto. Quando cambieranno segretario... Sarai col segretario nuovo. Certo, ma c'è sempre che un imbecille giornalista è razzista, là, ma il razzista è lei che dice che ha, non si vergogna allora, di dire queste porcherie alla radio. Mi dispiace, dimmi, caro, ma io con i razzisti non ci parlo. Ma perché è razzista? Se mai è il contrario. Ma perché è razzista? Ma scusami. Il contrario. Cazzo, Davide, sempre la stessa cosa. Possibile, devi cioè, fare sempre incazzare pure le persone. Razzista dal razzista. Ma è bella questa cosa qua. Ti dai del razzista, giornalista razzista, stupendo. Ma molti te lo danno il razzista. È incredibile. Aspetta, riproviamo, ragazzi, vai. Parla Parla solo con me, Erminio, parla solo con me. Luciani, te l'ho già detto. Parla solo con me, lui sta zitto. Allontani il razzista, io con te parlo. Razzista sei tu. Sì, ok. No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, non lo faccio. Parla solo con me, parla solo con me, parla solo con me, parla solo con me. Guarda, sento l'odore del razzismo. Ma adesso, però scusami, Erminio, aspetta. Erminio, Erminio. Io con quel soggetto parla con me, parla con me. Niente, non vuole parlare con te, non c'è niente da fare, non c'è. Beh, niente da sono fare. Onorato. Marcello, Modena, vai. Marcello. Marcello. Emanuele Ancona, vai. Ma come puoi permettere di dire o di far dire nella tua trasmissione che patria e onore sono termini degli anni 30? Qui bisogna che qualcuno studia il diritto costituzionale. No, aspetta, non ho capito qual è il punto. Non è di Stato. Sì, ma stai calmo, qual è il punto? Non ho capito. Il punto è che non si può sentire descrivere lo Stato italiano così. Ma chi? Senza confini. Ma sei impazzito? Di cosa stai parlando? È una cosa incredibile, incredibile. Ma di cosa stai parlando? Non ho capito. Sto parlando della definizione del linguaggio di Trump che difende gli Stati Uniti, quindi la sua nazione, mentre c'è qualcuno vicino a te che dice che questo linguaggio ricorda gli anni 30. Ma ok, è un'altra puttanata. Certo, puttanata, dire dai. Che gli immigrati non sapere che gli Stati Uniti sono nati con l'immigrazione perché sono un paese di immigrati. Ma non è che il linguaggio di anni 30 quello di Trump, dire, dai, è un linguaggio da anni 30 per alcuni aspetti. Vai, certo, più colorito, favore, più pop, favore, col capello giallo, coi miliardi in tasca, con la torre di Donald Trump, con la moglie Barbie con i capelli biondi. Quindi è tutta la farsa, la tragedia si trasforma in farsa ovviamente oggi, no? Perché è così. Ma cosa c'entrano gli anni 30? La tragedia diventa una farsa oggi, una barzelletta, un signore con i capelli gialli anziché con il baffetto, che ha una moglie molto bella, che è una specie di Barbie, miliardario con la torre, non me ne frega nulla, con una torre miliardaria, è un signore simpatico che fa salire l'audience dei talk show e che dice delle puttanate mega galattiche. Il capo della Corea del Nord che somiglia al cantante Vabbè, appunto, quello appunto, non è che quello lo definisce. Non paragono Trump a un dittatore, ovviamente, perché è un paese democratico degli Stati Uniti. Però non stai molto distante, eh? Assolutamente no, conosco bene l'America, non mi permetterei mai. Cara Lorenzin, mi faccio le canne da 20 anni, ma one shot, one ball, siamo al top. La Zanzara. Ragazzi, è semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta 800240024, se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita 393 717 1701, siamo al top. Allora, molti ascoltatori intervengono su questa vicenda della intervenire o meno durante una rissa nella metropolitana, dopo le immagini drammatiche che sono state diffuse oggi dal Messaggero. Allora, Marco da Bergamo su quel pestaggio del ragazzo a Roma. Marco, Bergamo, vai. Eccomi. Dai. Ascolta, prima dell'intervento, l'emotivo, vorrei dirti che qualsiasi trasmissione non può essere conclusa con quell'individuo che è in parte, che è il concentrato di demenza, che l'unica aspirazione è di farti eleggere nel PD come tutta la cozzaglia di gente che non è eletto nel PD, da chi è degli altri. Comunque, che vuol dire che nessuna trasmissione si può concludere? Non ho capito. Si può concludere. Che ti sia sul cazzo Parenzo, questo qua è legittimo. Benissimo, naturalmente. Molto bene. Ma no, non capisco. Non sta sul cazzo, non dovrebbe neanche esistere una cosa. Però qui si vuole. Meno male. Non è il mio intervento, che onore. Ma che vuol, dire non dovrebbe nemmeno esistere? Onorato. Marco, non ho capito. Vabbè, dai, non così. L'hanno detto tutti, l'hanno detto tutti. Il tempo e le parole adatte, forza, ce la puoi fare. Il mio intervento, dai, ecco, altrimenti ce ne sarebbe. Bravo. Ma non ho capito, Marco, che dovrebbe fare? Dovrebbe morire, dovrebbe scomparire, che dovrebbe fare Parenzo? non c'è un termine che potrebbe essere definito. No, vabbè, definiscilo però, dillo, l'hai detto tu, l'hai introdotto tu questo argomento, mica l'ho introdotto io. Non dovrebbe andare in televisione, non dovrebbe parlare, ha ragione. Ha ragione, sto poveretto. Diamogli un minuto di gloria, forza, Marco da Bergamo. Come si chiama? Marco. Il suo intervento, prego. Preparato da giorni, vediamo. No, da minuti. Si capisce dal tono. Intervenire in qualsiasi caso di violenza, di qualcosa per fare, perché c'è sempre il terrore e il dubbio di essere inquisiti, giudicati, condannati da un giudice. Profondo, ci manca poco che delinquenti fossero rom o di colore eccetera, italianissimi, se non puoi difenderti in casa per un ladro che ti entra, che ti aggredisce, come lo tocchi, se un carabiniere non può arrestare nel diritto delle sue funzioni un qualsiasi delinquente che lo maltratta eccetera, che viene condannato eccetera eccetera, come fa la gente comune che non ha un'assistenza, che non ha niente, a intervenire, a fermare? Marco, io non ho capito, tu stai dicendo, meno male che sia preparato per questo intervento, interessante, qualche parenzo di turno che ti condanna perché hai toccato questi poveretti che fumavano, che sono dei poveri eccetera eccetera. No, scusa Marco, avresti paura a intervenire perché poi c'è qualcuno che ti condanna, non ho capito, ma la gente non interviene, il dubbio della condanna di qualche giudice buonista, comunista, parenziano o altro, che giudici parenziani ancora non hanno scoperto, giudice parenziano, ottimo. Vabbè Marco, ciao. Matteo, bravo, Roma, vai. Però, perché... Matteo, giudice, Roma. Ciao, giudice parenziano, veramente siamo al top. Bravo, esatto. Ci saranno anche quelli, no, ci saranno. Bellissimo, bellissimo. Vai, Matteo, dimmi. Allora, velocemente, io ho rischiato il linciaggio a Roma, ho beccato uno scippatore e ho rischiato il linciaggio via Boccea e dalla gente che passava, ma noi tutti mi gridavano fatti i cazzi tua. Per quanto riguarda il linciaggio in metropolitana, posso capire la tua posizione, però guarda, quando una mamma viene presa a schiaffi da dei bulli, ma che ne sai che è una madre quella là, scusa, lo sai prima? Che lo sai prima? Ho capito, ma è una persona anziana, si è buttata addosso per proteggere un ragazzo, ma che ne sai, questa è la dinamica che sai dopo, questa è una dinamica di cui vieni a conoscenza dopo, vieni a sapere tutto dopo, quello che sai all'inizio quando sei, no, io non mi sto incazzando, quando sei dentro quel vagone vedi, in realtà vedi e non vedi, a un certo punto ti volti e vedi alcuni uno che mena un'altra persona, punto, basta, vedi solo quello, non sai chi ha iniziato, cosa è successo, cosa non è successo, eccetera, eccetera. Non lo sai. Beh, in generale, se vedi una donna aggredita, però capisci. Ma che ne sai, perché le donne sono tutte buone, non ho capito. Cioè, ma sono tutte... in generale, una regola abbastanza antica è quello che se vedi una donna aggredita da due uomini, anche se questa qui è una criminale incallita, per il fatto stesso che magari è una donna. Ma non è così. Quando sei dentro un vagone della metropolitana e vedi una scena di violenza, non sai che cosa è successo prima, che cosa è successo. Vedi dei frammenti, vedi delle persone che se le danno di santa ragione, o come d'accordo. In questo caso uno per terra che viene picchiato, non sai nulla se quelli sono dei delinquenti, se sono dei poliziotti, non sai niente, naturalmente, perché questa è la natura umana, ti allontani, ma non perché sei codardo, non perché, a parte che la codardia in questo caso è assolutamente legittima, non perché non vuoi intervenire, come dice Parenzo, perché sei indifferente. Beh, c'è un po' di perché indifferenza, proteggi te stesso. Proteggi te stesso, soprattutto perché alla fine non puoi fare un cazzo. Questo è il punto, perché non sai dove intervenire. Cosa intervieni per separare? Separare chi? Cosa? Non capisco. Federico da Milano, dai. Federico. Sottoscrivo pienamente quello che hai detto e sottoscrivo anche quello che ha detto l'interlocutore di Brescia prima. Effettivamente sussiste il rischio che se tu intervieni in difesa di qualcuno, non è che... no ragazzi, guarda che c'è il rischio, allora, è che te menano, ma non che poi vai sotto processo per qualche cosa. Se ti va bene, cioè, per ridurre all'impotenza gente di quel genere, non è che li puoi semplicemente bloccare, devi infliggergli delle lesioni. Non c'è via di scampo. Tu dici rischi poi una denuncia. È garantito, ma è già successo. No, ma questo è probabile che sia così. Se vai a vedere negli archivi, sì, ma in quel momento, in quel momento non è che decidi di non intervenire perché no, se no mi denunci. No, te ne vai perché hai paura, perché la paura di fronte a scene di questo tipo è assolutamente naturale e legittima. Cioè, ma di che parliamo? Dai. Uno sta in metropolitana e se ne va, se vede due che se meno, non è che sta là a dire: no, cosa è successo, signor cocainomane casertano, signor drogato, quello però che è. Però un po' li vedi dalla faccia, francamente, che non sono poliziotti, forse. Ma che ne sai? Sono dei poliziotti che sembrano dei delinquenti. Che dici? Anche dicevi, Federico? Sì. anche se ha una visione precisa dei fatti, anche se eri lì di fianco quando poi gli ho detto per favore non smetti di fumare, quindi hai visto la dinamica dell'aggressione, io chiamo la polizia, ma io mi astengo dall'intervenire, perché è così, cioè o sei un esperto di arti marziali e blocchi e riduci all'impotenza senza infliggere lesioni, ma per ridurre l'impotenza della gente così devi infliggere delle lesioni. E a quel da quel momento rischi la denuncia, ho capito. Rischi, no, è sicuro. Vai a vedere negli archivi dei giornali. Sì, molte persone saranno state poi denunciate da quelli là che da quelli dai protagonisti delle vicende, ma quello non è così strano. Però io dico che uno non ci pensa quando è lì, non è che pensa poi mi denunciano. Appunto. Pensa alla propria salvezza, diciamo. Questo, no? Questo Marcello sicuro. Da Modena, vai. Eugenetica. Che cosa è l'eugenetica? L'unica soluzione è l'eugenetica. Cosa c'entra l'eugenetica adesso? Fare. Cioè in che senso? L'hanno presi, si sono visti, si sa chi sono. Beh si sì, certo, l'hanno presi. Con tanta pietà, si portano all'ospedale, si fanno venire fuori senza i coglioni, perché bisogna fermarlo questo tipo di Ma che cosa? Scusa, qui non è la violenza sessuale. No, i ragazzi li prendi e li castri, quando tornano fuori vedrai che il prossimo ci pensa. Però scusami amico mio, adesso questi due signori che sono tre questi delinquenti sono stati fermati, adesso si difenderanno eccetera eccetera, cosa c'entra in questo caso la castrazione? Nulla. Perché strapparli non possono i coglioni in questo modo, ma non si può reagire così. Ma questo tutti siamo d'accordo, ma che cosa allora vuoi fare? Castrarli? Devi fermare l'eugenetica, questi non devono neanche far razza, non li uccidi perché l'eugenetica che ne so, sì, questo pensa che uno che reagisce in questo modo non sia più lui pensa che non siano più rieducabili, capito? Assolutamente no, ma questo lo dicono tutti quelli che pensano, non certo. Cioè, questi signori qua che dicono di essere imbottiti di droga, che reagiscono in questo modo in metropolitana. Pena di morte, via, dai, pena di morte. Hanno pestato una merda. Non devono riprodursi, quindi, dici, non devono nemmeno riprodursi. Non devono assolutamente riprodursi. Questo se ognuno di quelli che commette, se ogni persona che commette un reato debba essere castrata. Dai, che mondo dopo 20 anni, perfetto. Ma no, ma che perfetto, dai, su. Ma dai, ma lascia perdere che non c'è soluzione a questo. Ma sì, ma i delinquenti spesso restano delinquenti. No, i delinquenti un cazzo, i delinquenti quando vengono fuori, se vogliono fare del bene, lo fanno senza i coglioni. Vuol dire senza i coglioni, amico mio, senza i coglioni. Cioè, ha visto troppi film, ha visto Arancia Meccanica, altre. Questo non produce altri. Anche quelli farebbero delle schifezze anche producendo. Cioè, tu dici i figli che vengono da questi qua. Da questi qua c'è solo delle merde. Ciao e Marcello, ciao. A Cruciani, Sgarbi sta con le pezze al culo, non c'ha una lira. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Oh Cruciani, sono al Maxim, non indovinerai mai, parlando, bloccato Iside e mi si è avvicinato un signore. Beh, siamo al top Cruciani. E me l'ha rubata, cosa facciamo adesso? Ce la dividiamo in due, dividiamo la stessa torta o che cosa? Ciao bello. Ma che poi, al di là di tutto, ma prendere due immagini da ImageBank da 9,5 euro schifosi per fare una campagna del genere è capace qualsiasi proloco, non ci vuol mica il ministero, ragazzi. Sono patetici. Allora ragazzi, continua la grande inchiesta della Zanzara. In Italia nessuno sa, Parenzo, nessuno sa cos'è il clitoride o la clitoride. Nessuno lo sa. Questo è abbastanza incredibile, eh? Ma cioè, se tu chiami le persone, soprattutto di una certa età, ma non solo, credo, la definizione di clitoride, tutti sappiamo, tutte le persone, credo, in collegamento sappiano, quelli che stanno ascoltando, le tantissime persone che stanno ascoltando, sanno cos'è il clitoride. Lo sanno tutti. Però l'Italia profonda, cioè l'Italia vera, l'Italia spesso del sud, beh, le donne non sanno il significato di clitoride. La dimostrazione è in questo piccolo trucchetto che abbiamo usato, senti. Pronto? Sì, buonasera signora, qua la Dital, azienda leader nel settore dei clitoridi. Lei, che cosa sono? E lei, per esempio, in cucina, come prepara le patate? Come monta? Con il coltello. Con il coltello, quindi non usa abitualmente i clitoridi. Che cosa sono, scusi? Per esempio, quando si centrifuga la prugna, la patata. Ecco, noi siamo specializzati in clitoridi. Vorremmo dare alla donna un piacere particolare. Oh. Le può interessare, signora? Abbiamo un'ottima offerta di clitoridi. Ma che sarebbero, centrifuga verdure? E diciamo che con il clitoride si fanno, sì. E poi è semplice, perché basta un dito, cioè è semplicissimo, lei non deve preoccuparsi di nulla. Col solo dito lei ha proprio un piacere infinito. Non posso spendere soldi, questo è fatto. Non... Le dico, guardi, con i clitoridi il cetriolo viene fuori che una meraviglia. Mi dispiace, ma non ho soldi, no, no. Anche le melanzane bicazzute della Patagonia vengono molto bene col clitoride. No, no, non posso spendere soldi, e questo è il motivo. Però mi sarebbe piaciuto vedere come funzionava. Quindi è una questione economica, però le interesserebbe, sì, vedere come funziona il clitoride. Certo, perché mi sta sembrando una cosa strana, però. Pronto? Buonasera signora, qua la Dital, azienda leader nel settore dei clitoridi. Lei li usa in cucina, signora? Che cos'è questo clitoride? Il clitoride, signora, non sa cos'è il clitoride. E, per esempio, come prepara la patata? Insomma, in cucina lo usa? No. Posso chiederle cosa usa al posto del clitoride? Un coltello. Quindi lei al posto del clitoride usa il coltello? Sì. Ma proprio sempre? Sempre. Ma non ha mai usato il clitoride in vita sua? No. Guardi, è il caso di provarlo. Guardi, con un dito, basta un dito, è semplicissimo da usare e lei sarà la donna più felice di questo mondo. Abbiamo un'offerta di 10 clitoridi a un prezzo incredibile. E quanto è il prezzo? 12 euro alla confezione. Poi vedrà che piacere sarà per lei lavorare in cucina, veramente una goduria. No, perché io sono solo e perciò non è che lo uso tanto io poi. Sono sola, che ne devo fare? Ma forse proprio perché è sola il clitoride potrebbe servirle. No, non mi serve a me, io non lo conosco e non mi serve poi. Che ne fai? Io non ne cucina, sai. Mamma mia, che dramma, ragazzi, che dramma, che dramma. L'Italia profonda non sa il significato di clitoride, nemmeno le donne, cioè come... Tu capisci in che epoca abbiamo vissuto? Sì, ma no? Secondo me se uno li chiama e gli dice un'altra parola, ad esempio. No, no, se chiedi che cos'è il clitoride, ti dicono che frenulo, non lo sanno. Dice l'azienda Frenulo, vorremmo. Magari questi pensano veramente che sia che su un ferro da stiro, una ho cosa. Ho capito, ma quando di fronte alla parola è clitoride. È il contesto che un po' li. Che li inganna, dici. Sì, no, sì, se, sì, tu sì, li dici, se tu li dici clitoride, uno che lo sa dice: scusa, come cos'è il clitoride? Io so che è un'altra cosa, no? So che è l'organo femminile che produce piacere. Tu sai che c'è l'orgasmo clitorideo e l'orgasmo vaginale, no? Sei, cioè, a conoscenza, cioè, di questo. Credo di essere a conoscenza. Non lo so, magari non lo sai. Ho detto credo di essere a conoscenza. No, no, per carità, magari, assolutamente. Cruciani, siamo a 6 km dalla dogana di Chiasso. Ci fermiamo al Maxim. Traffico. La Zanzara. Francesco D'Ascoli, vai. Ciao Cruciani, dimmi. Volevo spezzare una lancia a tuo favore, perché non è una questione di indifferenza di, sì, non essere intervenuti, sì, lì nel, sì, testaggio, sì, a Roma. Sì. Lì il problema è che alla fine, da una persona come te che si è cagato sotto, sì, dopo aver provocato i vegani che, sì, ti volevano pestare, ti sei nascosto dietro la sicurezza, è, sì, normale che non ti viene... Sai che sei, aspettavo una, dico da carnivoro, sai che aspettavo una telefonata di un imbecille come te, l'aspettavo. Ma vabbè, sarò anche imbecille, cioè, aspettavo la telefonata tutto. Aspettavo la telefonata del primo imbecille che ricordava quell'episodio, eccolo qui, Francesco D'Ascoli, il primo cretino, bene, che ricordava questo episodio, eccolo, guarda, qua. Sarà anche come dici tu, ma secondo cosa me c'entra la scena, guardare una scena di violenza davanti a un problema, sì, cosa c'entra guardare una scena di violenza e allontanarsi, un provocatore che poi si rintana. Sì, perché dovevo fare a botte? Dovevo fare a botte con quelli? Ma sei tu che ma dovevo fare a botte? Io non ho provocato nessuno. Dovevo fare a botte? Dovevo fare a botte? Dovevo fare a botte? Gli sei andato sotto il muso, come si dice. Dovevo fare a botte? Dovevo fare a botte? Dovevo fare a botte? Linguaggio violento, fai, ma quale linguaggio violento? Ma stai zitto, che non sai nulla, non sai niente. Ma senza coraggio, è normale che... Senza coraggio, perché il coraggio come si dimostra? No? Come affrontando a mani nude le persone, non ho capito. se c'è la affrontare a botte le persone. Che in difficoltà, c'è chi lo ma fa, non lo sai in quel momento. Se... Che ne sai? Allora, nessuno lo fa nel mondo. Senti, cretino, che ne sai che dentro la meritocrazia quando qualcuno è in difficoltà o no? Che ne sai chi è in difficoltà? Lo che so ne perché sai? Io ho vissuto a Parigi e sono intervenuto alle 2 di notte sì. quando c'erano due negri. Bravo, che volevano due negri, una poveraccia sì. che era ubriaca. Ma cosa? La gente ce l'ha le palle. Allora, quando uno ha visto un tutta problema. Francesco, nato, quando uno ha visto coglione. Tutta la scena, io sono nato senza coglione, ma tu sei nato senza cervello, che è una cosa diversa. Vabbè, senza coglioni altro. Si può campare, senza cervello no. Senti, vabbè. Francesco, il problema è molto semplice. Se uno la scena non l'ha vista e vede semplicemente delle persone che si picchiano, fa bene a non intervenire. Poi se uno sì, interviene se, vuole inter- se, può intervenire fa bene tranquillamente. Per se stesso, fa bene per se stesso. Poi va a dormire, magari... Cioè, no. voglio dire, se uno non c'ha coscienza è una bestia. Se uno non c'ha coscienza normale, è una bestia. Dire... È normale che le persone siano allontanate, no, è assolutamente normale. Normale. È normale avere paura. Io sono d'accordo e allora con quello te, ho detto. Avere paura. È quello ma ho non detto. Puoi giustificarlo, non puoi pensare che se in quel caso non si poteva fare non si poteva fare diversamente. Magari qualcuno tira fuori i coglioni, magari. Ma cosa c'entra? Anche se qualcuno avesse tirato fuori i coglioni, avrebbe preso le botte da quei due matti e basta, non beh, sarebbe dipende, cambiato niente. Se di 8 persone avessero fermato 2 matti, forse Marco dalla provincia di Torino, adesso si fanno le ronde dipende. Improvvise Marco dalla provincia di Torino. Beh, le ronde le faceva la Lega, le ronde, Marco, famose ronde. Sì, mi fa parlare Parenzo, grazie. Ma io penso che i sentimenti che siano, diciamo, intervenuti nelle persone che erano presenti sono state anzitutto la paura. Ma questo è sicuro. Che ma è normale, si ha paura. Ragazzi, è normale. E poi comunque io condivido anche l'intervento di qualche radioascoltatore precedente che diceva che purtroppo oggi non vi è più certezza di giustizia in Italia, no? Per cioè cui uno magari... viene denunciato. Questo non c'entra niente, certo, proprio. Certo, quelli lì questo, prendono... Questo francamente non c'entra nulla questa roba. Ma assolutamente, testa di zitto Parenzo. Non c'entra no, ma non c'entra, non è che uno non interviene perché ha paura poi di una denuncia. Uno non interviene perché ha paura. Questa è una stupidaggine eclatante. No, non interviene anche per quel motivo, ma perché la cosa migliore è che poi faranno questi qui, troveranno l'avvocato furbetto, sai che c'è? Ma figurati. Adesso denunciamo chi ti ha spaccato... in testa il computer che aveva dietro, ti ha procurato le elezioni. Ma figuriamoci. No, ma è così, perché va bene Marco, ho capito, ma non è così. Fuori, Ciao. Allora ragazzi, sempre di più le trasmissioni televisive parlano di sesso. Ormai, diciamo, abbiamo anticipato i tempi da questo punto di vista. L'altro giorno, credo, durante di martedì, credo sia andato in onda un servizio su Klagenfurt. Sì, hanno sì, scoperto sì. che esistono i bordelli per ricchi a Klagenfurt. Grandissima scoperta. Grazie, lo sapevamo da una decina di anni che esisteva questo posto a Klagenfurt, che fa parte di una catena. Amici miei, Carmine, tu che conosci bene l'Austria, sai di cosa parlo, anche se Klagenfurt è molto caro, mi dicono, io non sono mai stato. 2005 per una notte, si può arrivare a 2005 per una notte, senti. Siamo in un albergo di lusso particolare perché invece che affittare le camere a giorni, noi le affittiamo a ore, con la compagnia di ragazze che possono mettersi a disposizione sia per una normale conversazione che un livello di compagnia più avanzato, fino appunto ad arrivare al sesso vero e proprio. Con 400-500 euro si può passare una bellissima serata all'interno del locale. Poi è chiaro che se si vuole spingere un po' sull'acceleratore, insomma, i costi possono salire in modo importante. Per una notte bisogna calcolare circa 2500 euro. Qui è assolutamente tutto legale, con regolari licenze. E questo lo sapevamo, che era tutto regolare. Beh, che immagino. Ciò doveva dire quello. Non è che uno parla, no, siamo irregolari, siamo illegali. Ma dai, su. Guarda, ti avvilla che subito c'è la pubblicità. In Italia ce lo sogniamo. Io vengo da Roma, dentro sono quasi tutti italiani. È che siamo un popolo di puttanieri. Parla anche qualche prostituta, poi non si vedeva niente. In realtà molte non si sono volute far riprendere. Ma insomma, la decisione di fare questo lavoro come è venuta? Così ho voluto io, ho deciso io. Sì. Sì. Che cosa facevi in montagna? Lavoravo in una fabbrica. Vabbè, le trasmissioni televisive pensano di aver scoperto chissà che cosa, invece scoprono l'acqua calda, tutte cose già note, arcinote. Dove andiamo? Andiamo Paolo Napoli, vai Paolo. Cosciani Parenzo, buonasera. Dimmi. Ciao Crociano, senti, su questa cosa della metropolitana io ti devo dare ragione. A me mi dispiace assai questa cosa, ma ti devo dare ragione. Ma su che cosa? Sul fatto che è complicato intervenire, le persone no, che intervengono, non è per codardia. Non si deve intervenire, anche se tu sei coraggioso. Io faccio tanti anni di arti marziali, mi sono trovato esattamente in quella situazione. È male. Mio, no? Sì. Dentro, se hai anche gli strumenti per difenderti, aspetta, male, stai a sentire doppio. Che cosa dice. Parenzo un cazzo, perché poi per la strada non sai mai cosa funziona sul serio. Però il problema è che noi abbiamo salvato un criminale. Cioè, noi ci siamo buttati dentro perché abbiamo visto la cosa, però abbiamo salvato quello sbagliato, e questa è la cosa gravissima. Una figura in merda esagerata. Come quello sbagliato? In che senso? È perché praticamente stavamo in metropolitana, c'è questo parapiglia e c'è un ragazzo che era bloccato alla parete da un giovane e un signore con la giacca a quadretti semipelato. Sì. Un personaggio che voi non era avete, lo avete praticamente liberato questo qua. Lo abbiamo liberato e abbiamo inseguito, abbiamo scacciato questo signore di spinto con la giacca. Che invece era un signore per bene e quell'altro era un criminale. E quell'altro aveva appena picchiato la fidanzata al piano di sopra, quindi... Cioè, tu capisci, però no? Però noi non lo sapevamo, cazzo. Quindi io ho visto, era un linciaggio per me, no? Visto uno linciato attaccato alla parete, e ho detto, la prossima volta. Sì, infatti, la cosa importante intanto è dividerli, appunto. Ma perché più che prendere parte. Ma quello invece si è pentito. Parenzo, quello no, è massacrato. E allora spingetelo sotto la metropolitana a quel punto, no? Che c'entra? Anche se... cosa no, c'entra? Non c'entra, però se io mi facevo i cazzi miei, poi si è scoperto addirittura che il giovane che abbiamo fermato era un carabiniere. Cioè, quindi tu lo capisci? Abbiamo tolto dalle mani delle forze dell'ultimo, una figura di merda esagerata, voglio, non potete capire, è una cosa terribile. No, ma questo ti dice, ti fa capire. E questo che... non ha detto sono un carabiniere? No, non ci ha avuto il tempo. Non ha avuto il tempo di dirlo. Allora, quello fa arti marziali, eccetera. Questa è la dimostrazione del fatto che bisogna... farsi i cazzi propri. No, bisogna farsi i cazzi propri. Quando la situazione non è chiara... Ma questo è certo, però fare qualcosa... Ma è inutile intervenire, ma fare qualcosa cosa? Semplicemente bloccare la metropolitana subito, sì, telefonare alla polizia, la così fare casino e provare a far capire che ci sono altre persone lì. La polemica non era su questo. La polemica c'è stata sul fatto che nessuno su è intervenuto. Intervenire. No, che nessuno è intervenuto. È una minchiata, nessuno è intervenuto. Non so chi l'ha detto, se lui o lei, la madre o tutti e due. La madre. Nessuno ci ha aiutato, amica mia, nessuno vi ha aiutato, è normale che nessuno magari vi ha quelle aiutato. Che davano aiuto una, si vedono una donna che piglia uno schiaffo. Vabbè, in faccia, no, avete ragione voi, che ti devo dire. Diego Milano, vai. Pronto? Dimmi Diego, dimmi. Ciao, allora devo contraddirvi proprio di brutto, perché io faccio arti marziali da 37 anni e ne ho 41, peso 100 kg e io sarei intervenuto io, perché non è possibile fregarsene così tanto del prossimo. Non è possibile. A casa mia sono venuti ladri due volte. Mi hanno anche denunciato, ma alla fine mi sono sempre difeso e ho sempre vinto. In modo particolare, la seconda volta li ho beccati sul balcone, io ho detto allora... con mio figlio. Non esiste al mondo fregarsene, Cruciani. Andiamo così male perché c'è il menefreghismo. Ma oddio, che banalità, mamma mia, che banalità. Ha vinto la filosofia di Razzi. Non dico che dovevano salvare le persone. Certo. Perché a volte, come che banalità che dite, è naturale allontanarsi. Almeno aiutare la signora. Ma che ne sai che quello che è successo prima? Ma dai, smettetela di fare i ganassa che poi quando state lì ve ne scappate come conigli. Dipende, io avrei telefonato, avrei chiamato aiuto. Ma che c'entra comunque telefonare? Non è quello in discussione. Avrei urlato dai a qualcuno, aiuto, venite aiuto, qui, aiuto, si stanno menando. Qualcosa che non avrei fatto, oddio, devo salvare la ghirba, aspetta che me ne vado, veloce, questo avrei fatto. La cosa naturale è allontanarsi. Ma chi se ne frega, dai, traffico. Allora, pure, ammazzatevi. Ora niente, non esiste al mondo che la gente se ne freghi così tanto. Non esiste. Ha vinto Razzi, amico mio, purtroppo. Ha vinto quella filosofia lì. Che c'entra Razzi? Te lo dico da amico, fatti i cazzi tu. Ha vinto quella filosofia lì. Per strada, te lo dico da amico, dentro la metropolitana. Ovunque. Fatti i cazzi tu. Ma ovunque, della vita, dappertutto, ha vinto quella filosofia lì, purtroppo. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. Thunder. Che spettacolo, Alori del Santo c'ha la tazza del cezzo che gli schizza di dietro, che spettacolo. Oddio, ma chi devo chiamare? L'idraulico, il falegname. Mannaggia, se andavo proprio da velletri, ma che cazzo devo sentire io? Ma prendi un cazzo di cacciavite a vita, sta cazzo di asse a vita. Mamma mia, quanto mi arrapa la voce della Lori del Santo, mamma santissima. Cioè, io finisco la cena, accendo la zanzara e mi sento questa vocina, ragazzi. Non potete farmi questo, eh. Non potete farmi questo. Mi hanno chiamato un sacco di idraulici, facchini, gente di servizio, fannulloni, nulla facenti, falsari, eccetera eccetera, per andare a casa della del Santo a Milano ad aggiustare la tazza del cesso, cioè più che altro la tavoletta del cesso, non la tazza. Cioè, basterebbe in realtà, mi dicono molti, una bella mandata di chiodi, no? Cioè una bella stretta ai chiodi della tavoletta, però evidentemente non è solo quello il problema, eh? Riccardo Rovigo, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi Riccardo. Solo una precisazione, leggevo poco fa che non esistono i due orgasmi clitorideo e vaginale, ma l'orgasmo della donna è sempre provocato dalla eccitazione della clitoride. Lei è un esperto, comunque. Riccardo, sei un esperto della materia? Leggevo perché mi hai messo un po' in crisi, perché io ho sempre con le mie donne non ho mai insistito sul clitoride. Anche perché si può eccitare solo attraverso. Ma come le viene in mente di telefonare per dire queste cose? Riccardo, questa è una certa... è un problema della mia vita anche questo, scusa. In che senso? Con una donna, voglio sapere cosa, come gode la donna o no. Sì, assolutamente, ma infatti è un problema interessante. Ma la cosa che mi incuriosisce è il fatto che lei voglia telefonare. Beh, ma è normale, cioè ma in quel... No, per dire, scusa, scusa, la moglie ce l'hai? È una compagna o no? La mia ignoranza precedente allo studio di questo argomento, che l'ho fatto poco fa, sollecitato da voi, può riguardare moltissimi italiani. Scusami, ma tu hai una compagna, una moglie? Ah, adesso al momento sono un uomo separato. Ecco, vedi, sei separato. Ho diverse compagne. Hai diverse compagne? Ovvio, non ha nessuno. A pagamento, cioè, no, perché a pagamento? Vabbè, ma perché uno normale non chiama in una radio facendosi riconoscere con la voce parlando di queste cose? Perché appartiene all'intimità. Ma che intimità? Ma che cazzo c'è? Se io fossi la compagna di questo signore, un po' mi vergognerei di questo. Come si chiama di nome? Sta parlando Riccardo del fatto che vuole sapere come fare godere una donna, siccome sa, ha una certa età, credo, no? E ha avuto diverse donne. È una certa esperienza. Dice, magari non le ho fatte godere, hanno fatto finta, no? Certo, e questo è il punto. Ma io non è che contesto la domanda. Può riguardare molti italiani. Cioè, per cui non ho capito, si è riuscito a capire che non esiste la differenza tra l'orgasmo clitorideo? No, c'è uno studio del 2009. No, esiste questa differenza. L'orgasmo vaginale... c'è uno studio, ti dico anche i dettagli. No. Ti dico anche i dettagli. Uno studio del 2009 di Folders e Boisson. Vabbè, in cui si sostiene che sul giornale della in cui si sessuale, sostiene che l'orgasmo comunque della donna è sempre clitorideo. Anche tu quando penetri la donna, solleciti la clitoride, perché la clitoride è un organo dell'apparato genitale femminile posto in alto. Sì. Cioè tu dici anche in quel caso è comunque clitorideo. Lui dice lo studio, non lo dico io. No, dice per carità, ma uno si può informare. Il problema è che, non sapendolo, tanti italiani pensano che solo la penetrazione vaginale sia sufficiente. No. Bisogna lavorare anche di lingua, insomma, in poche parole. Ecco. Vabbè, ma quello è abbastanza evidente. Che ho capito, però, sai. Spesso, anzi, è più facile in quel modo piuttosto che attraverso la penetrazione, ma quello è abbastanza... È una cosa di cui si può parlare tranquillamente senza che per questo vengano le pruderie a Parenzo. È una cosa assolutamente prudere, normale. Il fatto che è una roba personale, mi fa strano che uno telefoni... Ma Riccardo è molto interessato alla materia. Se piace è così, separato con diverse donne, dunque vuole sapere di che morte morire. La prendono le sue donne, vuole sapere di che morte morire. No. Vabbè, Riccardo, ciao. Allora ragazzi, io farei una telefonatina proprio in chiusura di trasmissione a questo prete che si chiama Sansoni, un prete che si presenta come igienista naturale. Partecipa a vari convegni vegani, eccetera eccetera. Lo vorrei sfrucugliare su qualcosa, un prete vegano, un prete vegetariano, igienista naturale. A me queste cose mi fanno impazzire, igienista naturale. Pronto? chi è? Sì, padre Sansoni? È lui, presente. Come andiamo? Come andiamo? Bene, chi sei, caro? Amico mio, mi chiamo Cruciani. Cruciani, il nome? Giuseppe. Ecco. Dimmi, Giuseppe. Senti, voglio un po' un consiglio. Dimmi, sono caro. Uno che continuo indefessamente a mangiare carne. Che te posso fare? Ma devo interrompere questa cosa? La carne non è il nostro alimento preferenziale dal punto di vista fisiologico, è quello. Tu puoi anche mangiare sempre carne e vivi. Ma mi posso ammalare, secondo te? Sì, secondo me sì. Secondo me, secondo quello che dice la medicina, insomma, capito? Dici. Sì. Tu mi hai fatto una domanda specifica, posso mangiare carne? Se c'hai fame, se ti piace la carne, mangia la carne. È giusto. Certo, io non te lo consiglio, capito? Senti, poi un'altra cosa che ho letto, ho letto nel tuo blog, là, da qualche parte, su Facebook. Queste scie chimiche che ci stanno in aria, no? Cioè questa roba qui... Questa è un'altra cosa. Guarda, io non sono un tecnico di queste cose, però una cosa bella non sembra che siano. No, ma esistono se scie chimiche, secondo te? Che so tutte quelle cose che vedi in giro, Giuseppe, tu sei, non vedi mai gli aerei ma quelle sono le tracce degli aerei, ma... no, certe volte sono reticolati, Giuseppe, facci caso. Ma tu dici che c'è un complotto? No, io sono tendenzialmente sono propenso a crederci agli articoli che appaiono, capito? Parliamo dei fammi la parola su quelli che fumano. Ecco, cosa pensa di quelli che fumano? Cioè, bravo, che bella domanda che mi... Ma che cosa? Le canne? No, le canne va bene, no, io le sigarette. Ma tu le canne te le fai? No, mai fatte, però dico al limite, meglio le canne che le sigarette, insomma, ce lo scrivono pure sui pacchetti di sigarette che... Beh, scrivono questo, però. Cosa scrivono? No, che il fumo fa male. Io dico questo, guarda, io non so se sei d'accordo, cioè, ma io credo di sì, tu sei un giornalista molto, molto, molto attivo, poi sei milanese. Non conosceva neanche, che ne sa? Ma no, dalle parole che fai, dalle frasi. Dimmi. Cioè, quello che fuma, a un certo punto si ammala, no? E va in ospedale. Cioè, usa la sanità gratuita, no? Cioè, noi però contribuiamo a questo. Cioè, tu dici che quelli che... Si dovrebbe pagare le spese, io dico. Ah, quelli che fumano si dovrebbero pagare le spese. Ma io perché ti devo pagare? È un'idea, la lancio. Me la lanci questa idea? Sì, è un'ottima idea, sono d'accordo con lei. No, ma che d'accordo? Sì, ho l'ottima idea, bellissima. Ma che d'accordo? Perfettamente ragione. Perché tu fumi, Giuseppe? Scusi, no? Evidentemente tu fumi. No, ancora detto che siamo in due. Fumo il sigaro. Sì, sì, sì, giusto. Fumo il sigaro. Ma no, hai capito com'è? Scusami, Corrado. Io ti voglio dire una cosa. Ma Giuseppe, sono già amici. Un matrimonio gay lo faresti? Sì, subito. Io no. Perché non lo faresti? No, io non lo farei perché per la dottrina, ognuno fa quello che si pare, no? Però la dottrina cattolica lo impedisce questo. C'è l'atto sessuale tra gay, come lo consideri? Un peccato? Ma io penso che ognuno fa quello... per la mia dottrina sì. È un peccato, è una cosa contro natura. Cioè due gay che si baciano sono contro natura? Per la dottrina cattolica questo non si può fare. E due che si inchiappettano? Per l'amor di Dio, ma che so queste cose? Vabbè, ma che vuol dire? Perché quello succede. Come fanno sesso due omosessuali? Per la dottrina cattolica questo non si può fare. È peccato, per il catechismo cattolico, se uno non è d'accordo, va bene, non è cattolico. È pieno anche di preti pedofili, come tu sai, o comunque di preti gay. La maggioranza, anche i giornalisti stronzi, per esempio, è pieno, tu pieno, non è il tuo caso. In ogni categoria. Bravissimo. Tu ce lo sai, no? Preti gay è pienissimo, però. Forse ci sta più preti gay che giornalisti stronzi, però vabbè, questa... Quello non credo. Comunque, sei simpatico, sei forte. Pure tu, a me le interviste piacciono, io non rifiuto mai, lo sai. Si capisce. Quello lo paga, mi prende in trappola. No, tanto c'è un cazzo da fare. Uno risponde e basta. Cioè, non avendo un cazzo da fare, è giusto. C'è questo sottofondo che è un amico, un altro giornalista. È un passante. Sì, sì. È uno che passa. Stai in piazza Duomo. È uno che passa da qua. Lui che c'è gente che non fa un cazzo tutto il giorno. È passata anche una scia chimica. Abbassati e mettiti la maschera antigas. Se tu non fossi un prete, l'atto sessuale tra gli omosessuali, come lo consigli? Cioè, io preferisco tra uomo e donna. No, vabbè, quello tu preferisci. Non lo conosci nemmeno l'atto sessuale. L'atto sessuale tra uomo e donna non lo conosci, però, perché non è... lo dici tu, poi pure io l'ho conosciuto prima di farmi prete, che ne sai? Anche dopo, forse. Non lo so, questi sono cazzi miei, no? Che c'è? Mi fai il padre confessore. Questo è interessante, secondo te dovrebbero fare sesso i preti? Sì, chiaro, io sono a favore, chiaro, tu sei a favore. Con la propria moglie. Ma guarda che era così fino a ma ho capito, ma no, questo è un capriccio della Chiesa che ha messo Gregorio VII, si dice pure che fosse omosessuale, che ne so io. A te piacciono le donne, Cora? Chiaro, è che mica so, io sono etero. No, ma ti piacciono? Ma non è un prete questo qua, scusa. Sì, è un prete, sì. Ma come, perché al Papa gli piacciono le donne? No, ma non puoi dire che non gli piace. Ma non gli piaceranno, no? Credo, non cosa non dice? Piacciono solo gli omosessuali, Giuseppe, ma che dici? Scusami un attimo, per esempio tu pratichi la masturbazione? No. Per sapere, non la pratichi. Ma... No, ma tu non mi fa le domande. Ma no, ma interessante, i preti si masturbano o no? Ma questo è interessante, ma scusa. Ma che ne so io? Ma no, tu sei un prete. Io sono a favore del matrimonio, del matrimonio chiaro, dei preti. Ma dite. Chiaro. Questo ma non, è... molto, non è molto, diciamo, nella dottrina della tua parrocchia, come dici. Come no? Ma anche il Papa è a favore, l'ha detto. Ma non, Papa non è a favore. Ma cosa non sta dicendo questo non qua? Dai, ma togliere. Come no? Tu hai sentito mai le dichiarazioni del Papa? Ma non ho mai detto che è a favore del sesso tra i preti. Dei preti. Ma no, del matrimonio. Ma non l'ha mai detto del matrimonio dei preti. Se il prete non conduce bene la propria famiglia, come può condurre la famiglia di Dio? Certo, tanto che per i primi secoli i preti questo erano è giusto, non è sbagliato. Ma come no? A me fa piacere. Nulla da fare tutto il giorno. Fanno invece interviste, ti credo. Fa niente tutto il giorno, per forza. Fammi passare con questo passante, perché non fammi parlare col passante. Ma quale passante? Ma non ha nulla, continua a dire, mi piacciono le interviste, ti credo, non fa niente tutto il giorno. Ma perché non fa niente? Ma non fa nulla, perché... Passante, non dire cazzate. Come si permette a chiamarmi? Scusa, è un prete. Come si permette a chiamarmi passante? Intanto l'ho primo. Detto io che ero passante. No, il giornalista l'ha detto. Oh no, io non quale giornalista? Il giornalista. Quale giornalista? Ah, perché Cruciani sarebbe. Perché il tuo amico Giuseppe sarebbe il giornalista. Lui l'ha detto. E io invece sono il passante. Così e lei non ha nulla da fare tutto il giorno, perché continua a ripetere: no, ma io sono disponibile per le interviste, ti credo, non fa niente. Chiunque, se uno non fa niente, per forza è disponibile a fare interviste. Comunque. Va bene, passante, hai ragione. Passante. Ma come passante? Ma come si permette? Ma quale passante? Ma quale? Ma come? Perché devi quale passante? Giuseppe, amici, Giuseppe, stai bene. Ci ha fatto piacere, per forza. Che si chiama tempo libero. Non sono passante. Le ha fatto piacere perché, siccome si chiama tanto tempo libero, le ha fatto piacere. Saranno cazzi suoi, scusami. Ho capito, ma 10 minuti con te. Vuole fare un'altra intervista? Facciamo un'altra intervista? Ciao, gli fa piacere. Deve andare a fare un'intervista. Che c'è da fare? Ma guarda che incredibile. Ma perché passante. Non ci dovrebbe avere niente da fare? Scusa, non ho ma capito. Nulla, l'ha detto, mi ha fatto piacere fare questa intervista. Mi ha fatto piacere perché chiamato a tradimento, risponde subito, dice che gli fa piacere, ha perso un quarto d'ora, una persona normale che lavora, no, alle 7:30. Lavinia, Roma, vai, Lavinia. Alle 8. Allora, vi chiamavo innanzitutto per contestare un po' il discorso dell'aggressione metropolitana. Nel senso, sì, sono d'accordo che non è il caso magari di intervenire, a meno che uno non pesi 100 kg e non faccia arti marziali da 40 anni. Però è anche vero che subito dopo l'aggressione magari qualcuno poteva affacciarsi e stare vicino al ragazzo. Invece ho visto dal video persone affacciarsi e poco ci mancava, c'era qualcuno con l'asta del selfie. Cioè, sì, dopo diciamo che dopo quelli erano per terra, nessuno è intervenuto subito. D'accordo. Eh no, perché a vedere il video si vede gente che si affaccia. Vabbè. Secondo punto, volevo intervenire anche per quanto riguarda l'ascoltatore di prima. Parenzo, ti do ragione su tutto, però stavolta un po' sono stazzista. Ma che cacchio ne sai di orgasmi femminili? Chi? Ma no, chi? Ho detto semplicemente che non ne parlerei alla radio. Non Parenzo, io ti do ragione nel senso, chiamare per questa è una buffonata. In questo ti do ragione. Il riferimento all'ascoltatore di prima, ma che cacchio ne sai? Io non ho capito, invece tu sapresti tutto di orgasmo. Beh, essendo donna qualcosa saprai. Grazie Davide. Tu saprai di come. Se non altro per il fatto che tu sai dei tuoi orgasmi, però non degli orgasmi delle altre. Cioè, sa come funziona la sua azienda. A meno diciamo che non così. Hai provato, magari sei un po' lento. Cioè, allora, sa come funziona la sua azienda, cioè, perché lo prova su di sé, come tu sai come funziona la tua di azienda e io sì, la mia. Però vi fermo, sono stata sia con donne che con uomini. Tu sei stata sia con donne che con uomini. Questo è interessante, cioè, perché sei bisex? No. Sono stata molto più con donne che con uomini, dire il vero. Non mi sono mai data una definizione perché non mi è mai piaciuto. Sei pansessuale, come dire? Beh, pan, no. Questa... Io pansessuale riguarda un po' troppi ambiti. No, pansessuale, no, cioè sei... non lo so come dirti, cioè sei... diciamo, a vuole, a vapor, ma... Ti interessano di più le donne perché? Boh, per un gusto personale. Su Radio Rock ci fu un'intervista sulla sessualità liquida, pure là ho risposto perché mi... Cioè, Lavinia, che cosa ti piace più della donna sessualmente rispetto all'uomo? E le forme morbide, l'intesa. Poi, vabbè, dipende. Là dipende anche dal carattere. Cioè, nell'ultimo anno sei stato più con, più, più con le donne o con gli uomini? Più con le donne. Più con le donne che con gli uomini. Vabbè, riprenderemo lunedì questo discorso, perché sì, è interessante la sessualità di Lavinia, no? Cioè, più donne... Questo può essere curioso. Più donne... Perché più donne? Per esempio, le donne riescono a mantenere questa situazione, gli uomini no. Cioè, le donne riescono a mantenere questa ambivalenza, no? Cioè, riescono a stare con uomini e donne senza risolvere questa situazione. Gli uomini è difficile, perché gli uomini poi alla fine scoprono che sono gay. Questa è la sostanza, no? Vabbè, ragazzi, è lunedì, ciao. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.